13. All'entrata 11, chiesi del serpente. Era un tatuato, che masticava una gomma detta americana e portava una giacca detta a vento, mentre noi attendevamo il turno in fila detta indiana. Davanti a noi c'era un ragazzo pallido, con un giaccone su cui era affrescato un rocchettaro celtico, roteante una chitarra a guisa di spadone. Si voltò e mi chiese: «Credi che oggi la mia vita cambierà?» «Ne sono sicuro», risposi. Arrivò il nostro turno. Il serpente valutò con uno sguardo pigro il ragazzo pallido. «Cos'hai fatto prima?» chiese. «Ho fatto la comparsa in ruoli violenti, specialmente stupratore, isolato o in collettivo. Ho fatto 3 volte lo zombie, ho partecipato a Voci Nuove con una mia canzone, Carezze. Ho fatto il travolto in una pubblicità Progresso sulla guida in stato etilico. Sono mimo, scenografo, coleottero. D'accordo, bello, ma hai mai fatto la guardia del corpo? Sono cintura marrone di karate. Ho studiato col maestro Albano Pesci, diplomato a Okinawa. Non basta, non ci servi». Il ragazzo si mise a respirare affannosamente e strinse i pugni. Pensai che stesse per dare un'esibizione di karate sul posto. Poi scoppiò a piangere. «Se non mi prende, io ingoio 2 lamette da barba, qua, davanti a tutti!» urlò. «Sparisci!» disse il serpente. «Te lo giuro, bastardo, te lo giuro! O mi fai passare o ingoio 2 lamette!» Si frugò in tasca, affannosamente. «Su, calma!» dissi io. «No, ce l'ha con me quel bastardo! È già 2 volte che mi scarta! Non mi ha voluto neanche come vittima di lager! Ma io mi ammazzo davanti a tutti. Avrebbe 2 lamette da barba, per favore, signore? Le avevo in tasca, ma non le trovo più». «Mi dispiace», dissi. «Mangio solo rasoi elettrici. Forse è meglio che tu vada a casa a calmarti». Non si fece pregare. Anche perché un energumeno in tuta lo afferrò per un braccio, torcendoglielo, e lo scaraventò via. Mi presentai davanti al serpente, che l'incidente non aveva messo di buon umore. Alzò gli occhi su di me e vide subito il tatuaggio sul dorso della mano. Lo tenevo bene in vista. «Caro Bed», disse, «da quanto tempo non ci vediamo?» «Tanto che me lo sono dimenticato», risposi io. «Questo è un professionista, caro Macete», disse il serpente all'energumeno. «L'ho visto in azione e ti assicuro che è meglio non litigarci. Il tuo provino è al Teatro 11, Bed. Vai con Macete e buona fortuna». Lo ringraziai con un educato inchino. Macete mi si mise al fianco, senza degnarmi di uno sguardo. Attraversammo un viale desolato, in mezzo ai capannoni. Si vedeva solo qualche poliziotto e, qua e là, pezzi di vecchia scenografia. Un fondale con una banchisa polare, un cannone di cartone, un pterodattilo di gomma. Il Teatro 11 era un capannone nuovo, tutto in alluminio, con migliaia di riflettori annidati in alto, come pipistrelli. Al centro c'era una tavola imbandita con ogni ben di Dio. Poi una cinepresa e 4 sedie. 3 sedie erano già occupate in modo considerevole. L'altra era per me. Entra un tipo con una camicia che sembra una frittata di farfalle, spelacchiato ma col codino e ben pasturato a coca. «Chi siete?» dice nervosamente. Due omoni distinti, genere notaio skinhead, dicono: «Siamo i terribili fratelli Paroli, il biondo e il bruno». Un uomo largo, come i due fratelli Paroli messi insieme, con un vestito argenteo, tipo kimono di Domopak, con federa dalmatata, dice: «Sono René La Mucca, ex campione mondiale di catch». Mi alzo e dico: «Sono Bed, dell'agenzia Zoccolo Duro». «State seduti lì», dice frittata di farfalle. «Vi devo filmare». «Ma è per un posto di guardia del corpo o di principe azzurro?» dice René La Mucca. «Silenzio! Se vuol fare la guardia del corpo di Son Fiero di Esser, il più grande cantante di rock patriottico del paese, lei deve essere fotogenico, telegenico, sinergico. Non sa in quante foto e filmati finirà la sua faccia». «Cazzate!» dice René La Mucca. «Su, ragazzi!» dice frittata di farfalle. «Siate disinvolti. Non state lì come macigni. Parlate, ridete, baciatevi». «Quello lì è matto!» dice René La Mucca. «Una volta era tutto diverso», sospira il Paroli Bruno. «Una volta facevi la guardia del corpo e basta. Un ringhio, un cazzottone in faccia, chi si avvicinava e via. Adesso...» «Non ditelo a me», dice René La Mucca. «Ho fatto per anni la guardia del corpo al conte Diefebo Brown, quello del dado da brodo vegetale. Un vero signore, Lo accompagnavo al ristorante, mi faceva sedere al tavolo vicino al suo e mangiavo come un pitone. Intanto lui faceva il galante con le sue amanti. Non aveva paura dei rapimenti, aveva paura dei macellai. Riceveva spesso lettere anonime con dentro una polpetta e un biglietto. «Finirai così, vecchio dadoso!» Invecchiando, gli vennero parecchie manie. Voleva che portassi la pistola. Cominciò a dispiacersi, perché nessuno voleva rapirlo. Comprò la macchina blindata. Esigeva che io perquisissi tutti i posti dove andavamo. Ma che? Nessuno ce l'aveva con lui. Era vecchio e non era più neanche ricco. L'azienda di Dadi Labrodo era in rovina. Dovetti organizzare un finto rapimento con alcuni amici e sventarlo. Fu molto contento. Ne parlò fino alla morte. «Gente con quello stile non c'è più», disse il Paroli biondo. «Adesso siamo guardie del corpo di un gerarchetto. Un orrore, da una festa all'altra, con la moglie carica d'oro come un contrabbandiere. Insieme a questi gorilla giovani, fanatici, tutti con il mitra israeliano e lo shuriken con le iniziali». «Non conoscono l'ACNR», dice il Paroli Bruno. «Leggono solo riviste di culturismo, si drogano di filetti al sangue. E i loro padroni vogliono che picchiamo i camerieri solo se tardano un po' a servirli. Da quando sanno che il gerarca capo si è fatto costruire il bunker in cima all'albergo, lo hanno voluto anche loro. Ci tocca ridormire sui tetti in tuta mimetica». «E che discorsi! Il mio padrone vuole sempre che gli racconti della legione straniera. Ma mica ci sono stato io nella legione straniera. Ho fatto l'ISEF. Allora mi tocca inventare un sacco di balle. Il fortino nel deserto, il morso dello scorpione e il feroce sergente Duchamp. E in auto hai 180 sirene spiegate anche per andare dal Sarto. Cambiamo un treno di gomme alla settimana». «E lei con chi lavora?» mi chiede nella mucca. «Io faccio la guardia del corpo a un grossista di mangimi», dico io. «Una gran brava persona». «Basta così per il provino», dice Frittata di Farfalle. «Siete stati veramente orribili. Adesso è la prova pratica». Si apre la porta del capannone. Entra un ragazzo con i capelli corti e un costume tra carabiniere e torero, compreso lo spadino. Dietro a lui una corte osannante. Il ragazzo guarda con freddezza il tavolo imbandito e subito alza un sopracciglio, contrariato. Tutti tremano. «Me ne vado!» urla all'improvviso, pestando i piedi. «Pezzi di merda! Me ne vado!» «Cosa c'è, son fiero?» dice Frittata di Farfalle. «Cos'è che non va?» «Avevo chiesto 10 litri di succo d'ananas ghiacciato, 2 ceste di papaie e babachi, del roast beef stiepido, del carpaccio di capriolo, 12 birre cinesi, Valium, Pinoli, cioccolatini alla menta, caffè americano, tè freddo, vomaltina, vodka al limone, 1 chilo di uva greca, 100 coche, crostini caldi, caviale Dossinski e 10 asciugamani profumati al sandalo». «E non c'è tutto? Mancano i pinoli! Per Dio, son fiero, questo non è un concerto, è solo un provino per le tue guardie del corpo, non puoi accontentarti!» «Sei un manager di merda!» sibila son fiero. «Hai letto cosa ha voluto Bidsterbaum quando è andato a togliersi dente del giudizio? Sei gelatai in camera, con attrezzature complete. È forse più bravo di me?» «Troveremo i pinoli!» urla Frittata alla corte. «Andate a cercarli e non chiedetemi come e dove. Abbattete una pineta se necessario, ma trovateli!» La corte schizza via. Son fiero sbadiglia e sbocconcella papaya. «Senza pinoli non comincio!» Frittata crolla su una sedia e si spara una zuccheriera di bomba su per la canappia. «Siamo nella merda», dichiara. Senza farmi vedere, eseguo il 12° trucco del terzo fiore Baol. Materializzo un sacchetto di pinoli dalla tasca e lo metto sul tavolo. «Ehi!» dico. «I pinoli sono lì, dietro l'uva!» Così possiamo cominciare. Son fiero di esser sta seduto comodamente al tavolo e fuma e beve e rosicchia. Dall'altra parte, dentro una gabbia di vetro blindato, ci sono 100 fan scatenate che premono, completamente impazzite alla vista del loro idolo. Ne liberano una 20 alla volta. Bisogna impedire che arrivino a toccare son fiero. Se una sola lo sfiora, perde il posto. Però quella che lo tocca ha il diritto di andare al concerto in prima fila. Perciò le ragazze sono molto determinate. Alcune sono armate di spilloni da capelli, altre hanno il casco. Sarà uno spasso. «Avanti i primi due!» dice Frittata di Farfalle. I fratelli Paroli si dispongono davanti a son fiero, come portieri a difesa della rete. «Liberate le pazze!» dice son fiero. Ne arrivano 2 dozzine, ululando come lupesse. Paroli Biondo ne stende subito quattro a sberle. Una gli dà una spillonata nella coscia. Paroli Bruno la prende e la spalma sul muro. Altre sei attaccano dalla sinistra. I fratelli le incantonano e le frollano calcioni. Ma ce ne sono altre due tostissime. Una con la lacca spray acceca il Biondo. L'altra spara calci nei coglioni del Bruno. Ma il Bruno ha la conchiglia, le solleva e scontra le testoline. Ne arrivano altre quattro armate di catene da motorino. La lotta è epica. Il Biondo cade tirandosene dietro tre. Il Bruno ne rotea una per i capelli e la lancia contro il mucchio, ma dalle retrovie piombano le ultime due. Il Biondo ne ferma una lanciandole un manganello tra le gambe. L'altra gli tira un'elasticata in un occhio e sta per toccare Sonfiero, quando con un tuffo disperato da rugby il Bruno la stende. Fine. Arrivano le barelle. «Non c'è male», dice Frittata, «però siete un po' lenti. Avanti gli altri due». Io e René la Mucca ci guardiamo. «Siete pronti?» dice Sonfiero, ghignando. Dietro al vetro sono pronte in 20 ancor più piccole scatenate delle precedenti. Hanno zainetti multicolori pieni di armi. Una rotea in aria uno Snoopy imbottito di pallini. Un'altra è in Vespa. «Siamo pronti», dico. «Però avrei un'obiezione». «Cioè?» «Il carpaccio non è di capriolo». «Stai zitto, stronzo!» urla Frittata. «È una questione di principio», dico io. «Ho lavorato 20 anni come buttafuori al ristorante Bonbon, con re dei cuochi francesi, Monsieur O'Ralph. So riconoscere un carpaccio vero da un carpaccio succedaneo. Quel carpaccio di volgare manzo». Scoppia un casino grandioso. Son fiero di essere a una crisi isterica e strappa il codino al manager. Le ragazze, vedendo il loro idolo adirato, si mettono a strillare e premono contro il vetro che scricchiola sinistramente. Io e René la Mucca ci lanciamo un nuovo sguardo d'intesa. Proprio mentre il vetro si spacca e 80 fan scatenate irrompono come piranha fuori da un acquario, noi scappiamo per l'uscita di sicurezza. Mentre scendiamo giù per buie scalette di ferro, sentiamo urla orribili e stridere di dentini. Stanno divorando Son fiero di essere.